Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come ogni giorno vi do alcune informazioni di servizio utili per tutte noi. Allora, la prima riguarda il nostro sito radio24.it. Potete consultarlo scaricando in tempo pressoché reale le puntate di tutte le trasmissioni, a maggior ragione di quelle come la mia che vanno in onda la mattina presto, quindi potete poi riascoltarlo con calma quando volete. È possibile scaricarle via podcast, abbonarsi e interloquire con i giornalisti che hanno un blog. Come voi sapete, io ne ho uno, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate tanto sul sito di Radio 24 quanto sull'home page del Sole 24 Ore online. La seconda informazione riguarda la nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it, mail che è stata raggiunta da una radioascoltatrice di Cavaillon Veronese, quindi, come dice il nome stesso, ci troviamo nel Veneto in provincia di Verona, che ha avuto un problema con Vodafone. Ed è per questo che io do il buongiorno a Paola Pachera, che ci ha segnalato il suo disservizio con Vodafone. Buongiorno Pachera. Buongiorno. E do il buongiorno al dottor Fabio Peloso, che è il responsabile di servizi al cliente per la telefonia fissa di Vodafone Italia. Buongiorno Peloso. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Pachera, ci illustri un po' il tipo di disservizio che lei ha avuto con Vodafone. Allora, l'anno scorso ad agosto ho praticamente sottoscritto il contratto con Vodafone per ricevere la Vodafone Station. E io, non essendo provvista di linea fissa a casa, ho chiesto ovviamente che uscisse un tecnico per installarmi la linea fissa e poi la DSL. E ho pagato i 99 euro che dovevo pagare, e mi è arrivata la Vodafone Station a settembre, e da settembre ho cominciato, diciamo, a sollecitare per capire come era lo stato di questo contratto. E mi è stato detto appunto che il tecnico doveva uscire per installazione della linea fissa, ed è uscito a ottobre, quindi sono passati sicuramente 2 mesi da quando avevo fatto appunto il contratto. Dopo che è uscito questo tecnico che mi ha installato la linea fissa, ho cominciato appunto a chiamare quasi giornalmente per chiedere quando avrei potuto avere la DSL. E diciamo che oggi non ho ancora la DSL, quindi non capisco perché. Più che altro sono molto sorpresa, in quanto l'ultima telefonata fatta al 190, che è il servizio clienti, un operatore mi ha confermato che non sarà possibile averla, in quanto non esistono linee disponibili, diciamo. Ecco, allora io vorrei riassumere un pochino il caso, perché come vedete interessa questa radioascoltatrice, ma chissà quanti in realtà. Allora, la nostra radioascoltatrice di Cavaillon Veronese ha firmato nell'agosto del 2009 un contratto per avere la linea ADSL privata con Vodafone. Non aveva la linea fissa, quindi attendeva che gli impiantassero questa linea. Sono passati mesi, siamo oramai alle porte della primavera, siamo ormai in primavera possiamo dire, e Vodafone non ha ancora messo la linea fissa ad alta velocità. Ma la cosa più inquietante, secondo me, adesso cercheremo di capirlo con il dottor Peloso, è che il servizio telefonico che dà le informazioni ai clienti ha detto, avrebbe detto, io uso anche il condizionale perché poi siamo qui per sentire la controparte interessata, avrebbe detto: cara signora, non ci sono linee disponibili, quindi chissà quando le metteremo questa linea ad alta velocità. Questo è il racconto della signora Pachera. È giusto, Pachera? È così? Esatto, esatto. Benissimo. Allora, la ricostruzione è questa. Dottor Peloso, ora ci dica lei come sono le cose. Dunque, mi lasci intanto dire una cosa prima di tutto, prima di entrare nella spiegazione, che comunque credo che a nome di Vodafone anche... Si scusa a nome dell'azienda. Ovviamente. Ha visto. Paola ha avuto una serie di disagi e credo ci sarebbe stato, diciamo, l'occasione per poter spiegare un po' meglio, certo, questa situazione. Però certo, è importante perché riguarda non soltanto evidentemente questa cliente, ma potrebbe riguardare anche i clienti e entrare un po' più... Esattamente. E quello che è successo è sostanzialmente quello che succede per Vodafone, ma credo anche per tutti gli altri operatori alternativi a Telecom Italia, ossia che quando noi richiediamo il servizio di linea fissa in nome per conto dei nostri clienti, prendiamo una parte della rete, che è di fatto tipicamente l'ultimo miglio, dall'operatore Telecom Italia, che è di fatto l'operatore ex monopolista. Eh, oggi, fatte 100 le richieste che vengono fatte di portabilità di linee fisse, sono dati pubblicati sul sito dell'Agicom, quindi sono noti, oltre il 20% non vengono evase per motivazioni di tipo tecnico adotte per l'appunto da Telecom Italia. In particolare nel caso specifico della signora, la dicitura tecnica che ha impedito l'allacciamento del servizio va sotto il nome di rete satura, che è un tecnicismo per dire che non ci sono risorse di rete disponibili per allacciare un nuovo utente. Ecco, allora io però vorrei chiederle questo, dottor Peloso. Ovviamente la sua ricostruzione è assolutamente legittima, però le chiedo questo. Nel momento in cui una compagnia, in questo caso siete voi, Vodafone, stipula un contratto con un cliente, non dovrebbe specificare benissimo queste cose, cioè dire al cliente, pinco, pallo o pallino, guarda che tu stai firmando un contratto, però che Dio ce la mandi buona per la DSL. Certo è che lei mi risponderà, in questo caso un cliente su due scapperebbe, non firmerebbe con voi o con altre compagnie il contratto, ma non è eticamente e moralmente corretto far presente queste, che poi sono difficoltà tecniche, magari non imputabili a Vodafone, imputabili ad altro, però voglio dire, non è corretto eticamente e moralmente farle presente queste cose. E poi le chiedo un'altra cosa, a questo punto che cosa accadrà quindi della linea DSL che sta pagando la signora Pachera di Cavaillon Veronese e chissà quanti altri in quel territorio o altre parti d'Italia? Guardi, due o tre cose rispetto a questo punto. Prego. Proprio anche per venire, diciamo, incontro a quelle che possono essere le aspettative del cliente, dei clienti in generale, quindi anche della cliente signora Paola, Vodafone ha adottato una soluzione che è appunto la famosa Vodafone Station di cui ha parlato anche la cliente, che permette, nell'attesa dell'allaccio, diciamo, della linea fisica, permette di usufruire dei servizi di navigazione internet evidentemente e di telefonia attraverso la rete mobile con prestazioni molto, molto, molto buone, e che nel periodo transitorio dalla sottoscrizione fino all'allacciamento della linea fisica permette questi servizi in maniera totalmente gratuita. Quello che ha evidenziato in termini di costo la cliente è il costo dell'allacciamento, dell'attivazione del servizio, non il costo di consumo di questi mesi. Benissimo, ecco però fatto. Quanto alla seconda parte della domanda, no? Vale a dire, a questo punto quando potrà avere in un termine anche di rapporto corretto, no? Di informazione di un'azienda, in questo caso Vodafone, nei confronti del suo cliente, che lo deve avvertire e dire, guarda caro cliente X, sono passati tanti mesi, ma ti informeremo quando finalmente sarà giunto il momento dell'allacciamento della linea veloce. Ecco, quanto tempo passerà secondo lei? Questo è il secondo punto. Mi lasci dire che forse con un eccesso di zelo e probabilmente senza aver comunicato in maniera corretta alla cliente, noi abbiamo provato in questi sei mesi per 7 volte a riproporre l'allacciamento della linea, quindi praticamente una volta ogni 3 settimane, ricevendo sempre sostanzialmente dei rifiuti da parte di Telecom Italia. E questo forse è quasi un accanimento terapeutico, avremmo dovuto fondamentalmente intervenire in maniera molto responsabile e di chiarezza nei confronti del cliente, spiegandoglielo prima. Quello che noi facciamo oggi con i nostri clienti, che superato un periodo che va generalmente, non è questo il caso ed è il motivo anche per cui mi scusavo, certo, nell'arco di 2 o 3 mesi, proponiamo alla cliente una soluzione alternativa, che è quella di poter fondamentalmente avere il servizio solo su rete mobile nel frattempo, mantenendo quindi il servizio, oppure a quel punto siamo costretti a informare il cliente di non poter al momento dare una data di prevista attivazione del servizio, e quindi rimborsiamo tutte le spese sostenute, nel caso specifico il costo di attivazione del servizio, proprio perché ci facciamo comunque carico del fatto. Benissimo. Che non dipende sicuramente, certo, dal cliente, anche da noi. Benissimo. Nel caso specifico, mi lascio soltanto una cosa, il rimborso da cliente era stato predisposto, ci tengo a dirlo perché è una prassi, già all'inizio di marzo, quindi prima che arrivasse la vostra segnalazione, sì. Tant'è vero, io non so se in questi giorni ha già ricevuto o sta ricevendo l'assegno di traenza con la quale noi rimborsavamo tutte le spese, proprio perché non avendo una data definita dal nostro interlocutore Telecom, non Telecom, benissimo, di dire al cliente una data certa. Benissimo, allora io ringrazio il dottor Peloso per queste spiegazioni, quindi attenzione perché i tempi purtroppo sono sempre abbastanza indicativi per vicende legate anche ai rapporti tra le compagnie telefoniche, come abbiamo sentito. Grazie alla nostra radioascoltatrice, in regia a Paolo Corleoni, in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.